أرضي وبلادي قلبي وفؤادي منها المجد منها المجد منها المجد مجد مجد عاشت عربية حرة أبية في ظلي. Buongiorno Palestina, come ogni mercoledì siamo qui a parlare di Palestina e vista la precedente trasmissione continuiamo con un discorso storico. Nella precedente trasmissione abbiamo trattato degli antefatti storici che hanno condotto all'attuale situazione. Continuiamo adesso con il discorso dell'espansione, la pulizia etnica e l'apartheid. Abbiamo con noi Piero e naturalmente Claudio. E la volta scorsa abbiamo parlato del fatto che la Palestina è stata dominata dagli ebrei solamente per un breve periodo, non è da sempre il luogo degli ebrei. Abbiamo parlato del sionismo religioso e del sionismo politico, e il sionismo politico come frutto del nazionalismo dell'Ottocento. E abbiamo parlato dell'universalismo dei valori ebraici. E infine abbiamo parlato di Gandhi, cioè è stato citato, è stata detta una citazione di Gandhi del 1938, che in sostanza diceva che lo Stato ebraico non poteva nascere sulle baionette dell'impero britannico. Oggi parliamo invece della situazione attuale. Piero. Sì, buonasera a tutti, grazie Gianna, grazie Claudio. E, come è già stato detto in premessa, io cercherò di parlare della situazione attuale in cui versa la Palestina, ma guardandola da un punto di vista anche evolutivo, cioè da un punto di vista storico. E come abbiamo fatto l'altra volta, abbiamo visto che Gandhi nel 1938 ha preso posizione, no, sull'espansionismo che i sionisti mettevano in atto nel territorio palestinese. Ma vorrei riprendere proprio da questo per far capire che la vicenda israelo-palestinese non è nata dopo la Shoah, e quindi le rivendicazioni sul territorio non sono il frutto della Shoah che ha colpito in maniera così tragica il popolo ebraico, ma il progetto dell'annessione e quindi dell'annessione e prima della formazione dello Stato e poi dell'annessione progressiva e quindi della pulizia etnica della Palestina è nato molto prima. È nato molto prima. E vorrei far capire che in effetti gli ebrei sionisti non avevano dei titoli giuridici per impadronirsi del territorio palestinese. Abbiamo detto l'altra volta che non sempre gli ebrei hanno dominato in quel territorio, ma hanno avuto un breve periodo di dominazione fino al 586 a.C. e poi ci sono stati altri popoli, ci sono state altre situazioni che hanno fatto sì che il popolo ebraico abbandonasse quella zona. Quindi la rivendicazione che dice, che loro sostengono, che la Gerusalemme è la capitale eterna della Palestina e loro hanno il diritto di ritornare in quella terra, indipendentemente da chi ci sta ora, è priva di fondamento. Da sottolineare poi che questo progetto è sostenuto non tanto dal diritto e dalla legalità internazionale, ma è sostenuto dall'uso delle armi. Ecco, e quindi diciamo che oggi lo Stato di Israele è riconosciuto come Stato dalle Nazioni Unite, ma fino sui confini del 1967, cioè della seconda guerra arabo-israeliana. Dopodiché anche il consesso internazionale, le Nazioni Unite in primis, ma anche poi tutti l'Europa e il mondo non riconosce la legalità dell'espansionismo israeliano dopo il 67. Quindi tu ci, quindi c'è una questione delle guerre israeliane, e questo lo tratteremo in una prossima trasmissione. Tu però adesso facevi riferimento a quello che è successo prima del 1948, cioè quando non si è trattato quindi del sionismo religioso, cioè il sionismo religioso è quello che considera la Palestina come terra santa, ma anche la Mecca è terra santa per gli arabi, ma non tutti gli arabi stanno nell'Arabia Saudita. E invece il sionismo, questo sionismo politico, cioè questa conquista senza badare a mezzi e a metodi, questo è qualcosa di precedente. Ecco, su questo va fatta, credo, chiarezza. Allora, per capire un po' meglio quello che è successo, bisogna ritornare indietro un po' nel tempo, no? Per capire anche che il diritto degli ebrei che loro rivendicano sul territorio palestinese non può essere sostenuto con l'argomento giuridico, perché abbiamo visto che non c'è nessun argomento giuridico, va bene su questo. Che possa sostenere un'occupazione e quindi un'invasione con la forza. Diciamo, non può essere nemmeno seriamente sostenuto l'argomento che gli ebrei di oggi che vivono in Israele, come quelli che continuano del resto ad andarci, siano i discendenti degli ebrei a cui era stata fatta la famosa promessa. E anche se questo fosse, anche se questo fosse, non si può pretendere che la loro credenza religiosa, che del resto la maggioranza dell'umanità non conosce e non accetta, costituisca un titolo valido per occupare delle terre altrui, va bene? A meno che non si sostenga che gli intrusi non sono gli israeliani, cioè gli israeliani, diciamo i sionisti, per essere più corretti, ma sono i palestinesi che hanno invaso quel territorio. Ultima cosa, un altro titolo che è quello fondamentale che ha dato luogo alla progressiva nascita, alla nascita finale dello Stato di Israele è la dichiarazione Balfour. Ecco, io vorrei un po' risalire su quella e vorrei leggere rapidamente la dichiarazione Balfour del 2 novembre 1917, che avveniva proprio alla fine della guerra fra l'Impero Ottomano e le forze, le alleanze occidentali, fra cui l'Inghilterra e la Francia, importantissime. Allora, cos'è successo? Successo questo, ci fu un patto, il Sykes-Picot, in cui le grandi potenze si suddividevano dei territori, le cosiddette terre nullius, per espandere il loro dominio coloniale. All'Inghilterra è toccata appunto la zona palestinese. Nel 22 questo mandato britannico è stato ufficializzato, è partito, però gli inglesi non possedevano lo Stato, non possedevano il territorio, lo governavano con il mandato che avevano avuto dopo la vittoria sull'Impero Ottomano. Balfour, che era ministro degli esteri, cosa ha fatto? Ha scritto a Rothschild, che era il rappresentante sionista nella Gran Bretagna, questa lettera, che è una dichiarazione che è all'origine poi di tutte le successive vicende. Vorrei precisare una cosa. Dunque, la dichiarazione Balfour è del 1917, cioè a guerra ancora in atto, ed è una dichiarazione interessata da parte dell'Inghilterra, perché l'Inghilterra ha tutto l'interesse che avvenga qualche cosa in Medio Oriente. Che cosa deve avvenire in Medio Oriente? La costituzione di un qualche stato alleato. Ecco qua. Certo, e infatti perché l'Inghilterra era interessata? Perché l'Inghilterra aveva interessi sull'Oriente, non solo sul Medio Oriente, ma anche sull'India, per esempio, no? E quindi aveva bisogno di di andare verso le Indie e quindi gli permettesse i traffici verso le colonie che lei, in cui lei c'era, no? Pensiamo, parlo naturalmente dello stretto di Suez. Ecco, per questo l'Inghilterra, tramite Balfour, promette agli ebrei con il seguente messaggio: promette agli ebrei appunto la dominazione, quindi la possibilità di espandersi in Palestina. Egregio Lord Rothschild, mi compiaccio di farle pervenire in nome del governo di Sua Maestà la seguente dichiarazione di comprensione delle aspirazioni dei sionisti ebraici, sottoposta al gabinetto e da questo approvata. Questa è la dichiarazione. Il governo di Sua Maestà vede con favore la creazione in Palestina, attenzione qui alle parole, perché ogni parola ha un significato, di un focolare nazionale. Non dice che gli ebrei hanno diritto a esprimere la loro fede religiosa e quindi la Gran Bretagna li aiuterà a esprimere questa loro fede, ma dice soltanto di un focolare nazionale del popolo ebraico. Questo focolare, quando si parla di focolare, si parla a una casa, si pensa a qualcosa che si possiede. Sarà poi lo Stato di Israele. Già allora c'era questo proponimento e questo obiettivo. Si adopererà inoltre con il massimo impegno per il raggiungimento di tale obiettivo, essendo chiaramente inteso che non si farà nulla che possa recare pregiudizio ai diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche presenti in Palestina. Pensate, queste parole, comunità non ebraiche, era un popolo che viveva lì, non era una comunità e basta. Quindi un popolo, non si cita la parola palestinese, ma comunità non ebraiche presenti in Palestina, né ai diritti e allo status politico di cui godono gli ebrei in qualsiasi altro paese. Le sarò grato se lei vorrà far pervenire la presente dichiarazione alla Federazione Sionista. Con sinceri saluti, Arthur James Balfour. Ecco, questa è la dichiarazione di Balfour. Allora, il peccato originale dello Stato israeliano risale a un secolo fa, 1917, perché dopo questa dichiarazione cosa successe? Successe che molti ebrei migrarono in Palestina, si comportarono come padroni, cercarono all'inizio di comprare le terre, soprattutto dai grandi proprietari. Quando finì l'acquisto delle terre e gli ebrei continuavano ad arrivare, evidentemente la terra non bastava, no? Perché c'era sempre un numero sempre maggiore di sbarchi in terra palestinese. Quindi si cominciò a pensare di cacciar via, con le buone o con le cattive, gli abitanti non ebrei. Ecco, e questa è una cosa particolarissima, non è mai successo niente di questo. Pensate, pensate, un impero come quello inglese, britannico, promette una terra che non è stata conquistata e non le appartiene a un popolo che non c'è ancora, senza chiedere permesso agli abitanti. Insomma, è un'anomalia, mi sembra, proprio nei fatti, no? Non c'è altro modo di descrivere questa incoscienza colonialista che viene fuori dalla dichiarazione Balfour. Ecco, questa è la cosa essenziale. Direi, per terminare questo aspetto, che oggi la discriminazione degli arabi israeliani, quelli rimasti in Israele dopo il 48, e l'occupazione della terra dei palestinesi, anche con la costruzione degli insediamenti che continuano, quindi loro hanno preso sul serio, no, questo invito a creare il focolare, no? Ne sono una diretta conseguenza. Si può dire in definitiva, se io direi, che il colonialismo britannico ha spianato la strada al colonialismo israeliano. E c'è poco, anche se loro sostengono che loro non so, loro gli spetta di diritto e non colonizzano niente, non occupano niente. Anche se questo non era nelle sue intenzioni iniziali di Balfour, forse, però questo è quello che è successo. Ecco, il fatto di non consultare la popolazione locale autoctona è stato fatto poi anche nel 1948, quando, nel 1947, quando le Nazioni Unite hanno fatto una proposta di divisione, di suddivisione della Palestina in zona ebraica e zona palestinese. E questo l'hanno fatto senza consultare la popolazione ebraica, la popolazione, scusate, araba. E mentre tra gli arabi c'era un'aspettativa di indipendenza, tu, Gianna, che cosa ne pensi? Beh, penso di sì, che in effetti, e lo diciamo, lo posso consigliare per chi vuol farsi un'idea, anche se un po' superficiale, della gestione inglese della spartizione della Palestina, di andare a rivedersi il film Lawrence d'Arabia. E beh, insomma, in cui si può capire, diciamo, un po' come gli inglesi hanno cercato, diciamo, di imbrogliare, ecco, diciamo, la revanche, insomma, di araba. Adesso, Claudio. No, io ricordo che poi Lawrence d'Arabia, a un certo punto, lui era favorevole a un'indipendenza araba, e lui era un adoratore degli arabi, ed era contrario al sionismo. Beh, a un certo punto fu trovato morto. Cioè, si attribuì questo a un incidente di motocicletta. Infatti il film inizia con la sua morte in motocicletta. Si trattò di una di queste inchieste poi chiuse molto in fretta. Beh, possiamo fare un breve intervallo musicale e poi riprendere con Piero. Bene, riprendiamo con Piero e riprendiamo da, ce lo dice Piero. Riprendiamo da quello che tu avevi citato prima, e cioè dalla risoluzione dell'Assemblea dell'ONU del 29 novembre 1947, la legge cosiddetta la risoluzione 181, che prevedeva, pensate, per una popolazione che era l'8%, prevedeva il 57% del territorio ai sionisti ebrei, il restante ai palestinesi. Pensate anche che in questo 57% erano le terre più fertili, c'erano le terre che andavano verso il mare, quindi c'era lo sbocco al mare, e ai palestinesi rimaneva la terra più desertica e le terre lontane da qualsiasi tipo di anche di veicolazione commerciale. Ecco, è una risoluzione unilaterale che a quel tempo Ben-Gurion non accettò, anzi accettò formalmente, non accettandolo però nei fatti, no? Disse: vabbè, bene, noi accettiamo, poi dopo vedremo, cioè impugneremo questa risoluzione, faremo delle cose, faremo delle iniziative che ci porteranno ad allargare, disse ai suoi seguaci, no? Poi questi documenti segreti sono stati tutti desecretati, e quindi queste cose sono chiare, sono venute fuori alla luce del sole. E poi faremo, dice, appunto, un'espansione che ci porterà ad aumentare questo 57%. Ecco. Però c'è da dire anche un'altra cosa, che questa risoluzione poi non è andata mai in ponte, non è andata mai in porto, scusate, non è andata mai in porto fino in fondo, perché lo Stato palestinese non è stato costituito neanche sul restante 42%, 43%. Quindi ancora oggi non è stato costituito. Quindi questa risoluzione ha avuto soltanto, diciamo, il soddisfacimento di una sua parte, l'altra parte è rimasta inevasa. Ecco, quindi questo va considerato. Tutto ciò, quando è nato lo Stato di Israele nel 15 di maggio del 1948, ecco, questo è nato per dichiarazione unilaterale di Ben Gurion ed è stato approvato dalla Società delle Nazioni, che sarebbe oggi l'Assemblea Nazionale dell'ONU, cioè le Nazioni Unite, però facendo promettere e quindi impegnando Israele, l'ONU, a far ritornare i profughi palestinesi, cioè di soddisfare la risoluzione 194, che era precedente dell'anno precedente, e a obbedire e a rispettare tutte le successive dichiarazioni dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Mi sembra questo è veramente un paradosso perché di tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite fino ad oggi non è stata rispettata neanche una. Ecco, quindi già qui si vede la malafede, no, dei sionisti prima e degli israeliani poi, eccetera. Comunque vorrei ancora dire una cosa, che prima di arrivare alla nascita dello Stato di Israele, ci sono state delle iniziative di espansionismo israeliano enormi. Già nel 1938, appunto, è quello che fece a dire a Gandhi fare quella dichiarazione, no, sulla necessità di cessare, no, l'espansionismo con l'uso delle armi e le baionette. Ecco, erano nati dei gruppi terroristici, proprio veri e propri, che si proponevano di distruggere villaggi e di sostituire questi villaggi con villaggi nuovi, con villaggi diversi. Un personaggio molto emblematico di questa situazione fu Zev Jabotinsky, che era un polacco, no? E lui disse questo: non possiamo promettere nulla, questo nel 1923, quindi pensate, 6 anni dopo la dichiarazione Balfour, non possiamo promettere nulla agli arabi della terra di Israele o alle nazioni arabe. La loro approvazione volontaria è impensabile. Quindi, tutti coloro che ritengono che un accordo con le popolazioni native sia una condizione essenziale che il sionismo debba rispettare, possono ora dire di no e uscire dal sionismo. La colonizzazione sionista deve essere completata, portata avanti in aperta sfida alla volontà delle popolazioni native. Una tale colonizzazione, però, può continuare a svilupparsi e deve continuare a svilupparsi solo sotto la protezione di una forza indipendente dalle popolazioni native, un muro di ferro che le popolazioni non possano spezzare. Questa è la nostra politica verso gli arabi. Ecco, questa è la dichiarazione. Ma senti Piero, e diciamo quei gruppi sionisti israeliani tipo l'IRGUM, la Banda Stern, sono intervenuti in quel periodo per peggiorare la situazione? Sì, anche. Certo, e infatti dopo questa dichiarazione i seguaci di Jabotinsky nel 1931, che vanno in Palestina perché ne arrivano in massa a quel tempo, danno vita all'Irgun Leumi, che è una milizia ebraica clandestina che insieme a Lehi, Lehi è nota soprattutto il nome di Banda Sterne, no? Banda Sterne, si macchierà di terribili crimini ai danni della popolazione palestinese. Tra questi, so se poi ci sarà tempo di parlarne, è il massacro di Deir Yassin nell'aprile del 48, che diventerà uno dei simboli della Nakba, della catastrofe, che poi con la cacciata di 800.000 residenti e cittadini palestinesi. Quindi queste bande terroristiche sono proprio quelle che spianano la strada poi alla nascita dello Stato israeliano. Allora, se si va a rivedere di nuovo, torniamo indietro un attimo, i titoli giuridici in cui gli ebrei possono pretendere di avere uno Stato, no? I titoli giuridici esistono o no? No, non esistono. anche loro lo riconoscono perché la legittimità giuridica non esiste, ma questo Stato israeliano è stato formato solo fondato sull'uso della forza. Quindi si potrebbe dire, ora io forse la butto là in modo un pochino provocatorio, che lo Stato di Israele, che esiste da oltre 70 anni, oggi è legittimato, ma la sua legittimazione è come i reati attuali che passano in prescrizione, cioè è un reato che ormai dopo 70 anni è passato in prescrizione e quindi diciamo è riconosciuto da tutti. Però ricordiamoci che lo Stato si è fondato non su una legittimazione di tipo giuridico, ma solo sull'uso della forza, dimostrato anche dalle attività e dalle azioni dei gruppi terroristici, Irgun esterne prima del 48. Perché uno degli argomenti che i sionisti in tutto il mondo, sia ebrei che non ebrei, che sono i sionisti peggiori sono i non ebrei, uno degli argomenti è: ma dovete concedere allo Stato di Israele il diritto di esistere, e lo mettete in discussione. No, il diritto di esistere dello Stato cioè, è dal 1600, mi pare adesso, mi pare la pace di Vestfalia, mi pare che stabilì che il diritto di esistere agli stati che esistono, cioè quindi lo Stato di Israele esiste in quanto c'è e quindi ha i diritti di esistere. Bene, abbiamo parlato, cioè il titolo di questa trasmissione è stata anche Apartheid e pulizia etica. Ecco, su questo piano, Piero, che cosa ci dici? Allora, vi faccio sentire ciò che disse nel 1937, quindi prima ancora dello Stato di Israele, della nascita dello Stato di Israele, cosa ci diceva Ben Gurion, cosa ha scritto Ben Gurion in una lettera al suo figlio Amos nel 1937, per capire appunto stato pulizia etnica, per capire apartheid successiva, eccetera. In alcuni casi genocidio. Cioè, ce ne sarebbe da vedere poi quando si parlerà delle guerre, vedremo anche episodi di questo tipo. Uno Stato ebraico costruito solo su una porzione della terra non è la fine del processo, ma solo l'inizio. Questo nel 1937. È uno strumento potente per la nostra storica intenzione di liberare l'intero paese, come se fosse occupato da stranieri, no? Da stranieri che non avevano il diritto di starci. Non vedo la spartizione come la soluzione definitiva della questione palestinese. Dopo la formazione di un esercito forte nel quadro della fondazione dello Stato, aboliremo la spartizione, quella prevista, che poi sarà prevista dalla 181, quindi già questa era. Sarebbe stata inutile anche proprio promuoverla, no? Aboliremo la spartizione e ci estenderemo su tutta la Palestina. Dobbiamo cacciare gli arabi e prendere il loro posto. Questo l'ha detto Ben Gurion, fondatore dello Stato di Israele, nel 1937. L'ha scritto in una lettera privata, però voglio dire, Ben Gurion non è un pericoloso antisionista, no? Quindi Ben Gurion è stato il primo e il fondatore dello Stato di Israele. Da questa dichiarazione è nato poi tutto il resto e siamo arrivati alla situazione di oggi. Sono passati oltre 70 anni dalla risoluzione dell'ONU famosa sulla Palestina e ancora il popolo palestinese è privato del suo sacrosanto diritto di costituire uno Stato o quantomeno, visto la situazione di oggi, in cui uno Stato sarà ben difficile poterlo ottenere, autodeterminarsi almeno con pari diritti, pari dignità in un popolo, diciamo, in uno Stato, con due popoli, in uno Stato con due popoli e quindi uno Stato, democratico, ecco, che rispetta i diritti di tutti. Ecco, cioè, stati multietnici, ce ne abbiamo esempi in tutto il mondo. a partire dagli Stati Uniti, ma anche l'Italia non si può dire che sia omogenea sul piano etnico. Ci sono stati arabi, ci sono stati francesi, ci sono stati spagnoli, ci sono stati tedeschi, c'è stato di tutto anche in Italia. Ecco, la pulizia etnica e l'apartheid, soprattutto oggi in Israele, come viene condotto? Perché a un certo punto esiste un movimento che si chiama BDS, boicottaggio di Israele, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni nei confronti di Israele. In che cosa consiste questo apartheid, questa discriminazione? Dunque, esaminiamo due casi, i due casi che in pratica costituiscono la questione palestinese, no? Ci sono due casi da esaminare. Il caso dei palestinesi dei territori occupati, quindi della Cisgiordania, e il caso invece dei palestinesi israeliani, cioè arabi israeliani che vivono ormai in Israele, cioè nei territori conquistati con la guerra del 48. Ecco, i primi, quelli che vivono in Cisgiordania, hanno dei limiti enormi di vita perché non hanno, prima di tutto, subiscono tutta una serie di violazioni dei diritti umani. Primo, prima di tutti, quello dello spostamento, cioè non hanno la possibilità di spostarsi, di muoversi da un villaggio all'altro se non con il permesso appunto dell'autorità israeliana. Perché questo si è rispettato, è stato costruito un muro che lungo oltre 720 km che non costeggia, che non è sulla linea verde, che è la linea, diciamo, di cessate il fuoco del 1948, ma penetra al suo interno cercando di isolare appunto i villaggi fra di loro. In più, perché questo sia rispettato, ancora questo diritto al no, il diritto, diciamo, per impedire lo spostamento dei palestinesi, sono stati messi in atto centinaia e centinaia di posti di blocco, si chiamano checkpoint. Questi checkpoint naturalmente impediscono, perché ci sono dei controlli rigorosissimi in cui tutti i palestinesi che devono passare sono sottoposti a controlli e molto spesso non possono, vengono trattenuti per ore ed ore al checkpoint. Poi, oltre a questo, ci sono anche tantissime altre forme, come quella della distruzione delle case, della confisca delle terre e della sottrazione delle sorgenti d'acqua. Anzi, a questo proposito, vi vorrei informare che fra qualche giorno verrà qui a Firenze, tre donne di uno di questi villaggi, si chiama Nabi Saleh. Che diranno, parleranno della loro situazione e del furto dell'acqua che ormai dal 2006 gli viene fatto dall'esercito israeliano. Ecco, quindi ci sono tantissimi, tantissimi esempi che fanno capire qual è la situazione di questi. Per quanto riguarda invece i palestinesi degli israeliani, loro subiscono un vero e proprio stato di apartheid, cioè divisioni. Quindi la lingua araba non si può più insegnare nelle scuole, quindi ci sono i ritrovi sono diversi, non possono frequentare gli stessi mezzi di trasporto. Ci sono dei locali per gli uni e per gli altri, non ci si può fidanzare un palestinese con un ebreo o viceversa, non si può avere un rapporto né d'amore né di amicizia fra i due popoli, perché tutto questo è proibito dalla legge attuale. Quindi mi sembra un vero e proprio apartheid, come era nei tempi in Sudafrica prima di Mandela, prima della. Mi sembra anche che gli arabi di Gerusalemme non partecipino alle elezioni comunali e E quindi è che sia proibita a loro ogni forma di attività politica pubblica. E io la domanda un po' ingenua che vorrei farti anche questo. Trovi giusto che un cittadino argentino, per esempio, argentino ebreo, possa migrare in Israele e avere immediata cittadinanza, mentre un palestinese che vi risiede da generazioni e generazioni non abbia questa possibilità, non abbia questo diritto? Certamente, ma questo fa parte appunto della politica israeliana, è evidente. Da quando Israele ha fatto soprattutto quella legge del 1918 sullo Stato-nazione del popolo ebraico, questo è ancora più vero, cioè il diritto al ritorno è il diritto al ritorno solo per gli ebrei. Anzi, ora si cerca di richiamare tutti gli ebrei della diaspora per riportarli tutti in Palestina e questo. Per questo dico nasceranno sempre nuove colonie. Il progetto israeliano è quello di dividere la Cisgiordania, i territori occupati, in due parti, divise fra di loro, in modo da isolare ancora di più i collegamenti fra i vari villaggi e predisporre così la possibilità di arrivare a nuovi coloni. Quindi gli ebrei arriveranno, nuove colonie, ora i coloni sono oltre 650.000, quindi diciamo non c'è più limite. E il problema più grosso è Gerusalemme Est. Gerusalemme della parte orientale è purtroppo sempre più in mano ai cosiddetti coloni, che la colonizzano e che quindi se questo avverrà, continuerà e porterà evidentemente alla scomparsa del popolo palestinese. Del resto, Trump ha già detto che Gerusalemme dovrà essere la capitale unica dello Stato di Israele. Se siamo in conclusione, Claudio? Ma siamo quasi in conclusione. Se hai ancora qualcosa di rilevante da dire, però poi le cose rilevanti da dire sarebbero tante, perché posso annunciare fin da adesso che su tre argomenti che abbiamo toccato faremo delle trasmissioni specifiche. Una sono le guerre di Israele. L'altra è come è avvenuta la conquista della terra. Perché anche nella guerra del 48, quando fu costituito lo Stato di Israele, solamente il 6% della terra apparteneva a ebrei. Cioè quello che era lo Stato di Israele, il possedimento delle terre era a persone arabe. Cioè come è avvenuta la conquista della terra. E il terzo, alcuni dettagli su come si articola l'apartheid. Ecco, anche su questo faremo qualche cosa di analitico. Andiamo, ancora Piero, un attimo. No, solo per dire che il 15 ottobre e il 29 ottobre noi faremo una proiezione di filmati al circolo, sulla Palestina chiaramente, al circolo di Via Maccari, al circolo Arci di Via Maccari. Il 18 ottobre alle 17:30 presso l'associazione Nosotras di Via Faenza 103 arriveranno le tre donne di Nabi Saleh, fra cui c'è la mamma di Ahed Tamimi, quella ragazzina che ha schiaffeggiato un ebreo o due ebrei ed è stata condannata al carcere, addirittura volevano condannarla a 10 anni. Questo la dice lunga ancora, no? Sull'atteggiamento democratico dello Stato israeliano per i propri cittadini. E quella del 27 ottobre alle 5:30 si presenterà al Circolo Arci di Montebeni il libro Maestro di Gaza, Il Maestro di Gaza. E se mi consenti, l'ultima cosa, vorrei per far capire come i palestinesi ancora hanno voglia di resistere e di andare avanti per la loro autodeterminazione, vorrei leggere questi brevissimi versi di Mahmoud Darwish fatti a Ramallah nel maggio 2002. Ma noi soffriamo di un male incurabile che si chiama speranza, speranza di liberazione e di indipendenza, speranza di una vita normale in cui non saremo né eroi né vittime. Speranza di vedere i nostri figli andare a scuola senza pericoli, speranza che i nostri poeti vedano la bellezza del colore rosso delle rose invece di quello del sangue, speranza che questa terra ritrovi il suo nome originale, Terra. terra d'amore e di pace. Grazie, arrivederci. Con questo concludiamo la trasmissione, vi ringraziamo dell'ascolto e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo.